Un luogo, una storia. Di Daniele Biacchessi. Un luogo, una storia, torna a narrare le città attraverso i set cinematografici e oggi è il turno di Roma. La storia del cinema di Roma inizia nel 1924 con la fondazione dell'Istituto Luce e poi a 10 anni di distanza di Cinecittà. Da quel momento Roma diviene l'industria del cinema italiano. Si passa dai primi documentari, grandi capolavori conosciuti, visti e premiati in tutto il mondo, da Roma città aperta fino alla grande bellezza. Roma è dunque un set cinematografico perfetto per qualsiasi genere di film. Sono tante, tantissime le pellicole che grazie alla maestosità dei monumenti, la bellezza dei vicoli e dei quartieri sono diventati famosi. Non si può non pensare alla Dolce Vita senza avere davanti agli occhi la scena della Fontana di Trevi con Marcello Mastroianni e Anita Ekberg. A Vacanze Romane, senza avere in mente la scena in cui Gregory Peck si sottopone alla prova della Bocca della Verità. Oppure La Grande Bellezza, senza pensare ai grandi luoghi di Roma visitati da Sorrentino, Colosseo, le Terme di Caracalla e Gianicolo, Palazzo Spada. Roma città aperta resta sicuramente uno dei grandi capolavori del cinema a livello mondiale, con Anna Magnani nel ruolo di Pina. La sua fucilazione venne girata in via Raimondo Montecuccoli, nella zona prenestina. Malte sono le vedute della città che il film offre. Ad esempio, durante un agguato dei partigiani alle armate tedesche, ancora una volta compare l'Eur in lontananza con l'inconfondibile Colosseo quadrato, simbolo del regime fascista. Francesco! Francesco! Francesco! Pino! Pino! Pino! Pino! Francesco! Francesco Carogna! Francesco! Francesco! Francesco! Lasciatemi! Lasciatemi! Parlando di film ambientati a Roma, non si può non citare La Dolce Vita, il classico dei classici, il simbolo del cinema italiano d'autore per eccellenza. Chi non conosce la celebre battuta Marcello, come here, che una splendida Anita Ekberg rivolge a Marcello Mastroianni mentre si immerge nell'acqua della Fontana di Trevi? Si dice che durante le riprese di questa scena, girata in inverno, Mastroianni dovette indossare una muta sotto ai vestiti per proteggersi dal freddo, mentre la svedese Anita Ekberg non ebbe alcun problema a restare immersa nell'acqua per tutto il tempo necessario. Oh, hello! Marcello, where are you? Where did it go for that milk? My goodness! Marcello, come here! Hurry up! Sì, Silvia, vengo anch'io. Ma sì, ha ragione lei, sto sbagliando tutto. Stiamo sbagliando tutto. I soliti ignoti, diretto da Mario Monicelli, è la prima vera e propria commedia all'italiana. Parla di un gruppo di balordi, di ladruncoli, che cerca il colpo perfetto ma è costretto a battere in ritirata. Nella scena finale, in cui la banda si scioglie, è ripresa una larga piazza semideserta dalla quale si dirama una linea tranviaria. Si tratta di Via Armenia, in zona San Giovanni. Se quando esco quell'affare mi viene ancora bene, vedrai. Se stavo fuori, porco mondaccio, cani! Tu stai a pensare all'affare ancora. Chissà che fesseria che era. Fesseria? L'altro mese qua dentro c'è stato un muratore del transito. Aveva dato una coltellata al cognato. M'ha detto che poco tempo fa aveva tirato su un muro di sfoglia. Sai, uno di quei muri che se buono con un dito. Tra una camera da pranzo e un locale del Monte di Pietà. E in questo locale che c'era? La Commare. Chi? La Commare, la cassa porta dei preziosi. E dimmi tu chi è più scarognato, te o io? Sai che bella consolazione. E come c'entravi nell'appartamento? Bussando, con permesso che devo fare un buco? Ma come sarebbe, come c'entravo? Dalla carbonaia, no? È un appartamento vuoto. È un'eredità indivisa, sai, roba d'impicci, roba da tribunali. Vuoto, hai capito? E io sto qui, inchiodato. E dove sta? A Via delle Madonne. Ah. Lo sai che ti dico? È un bel colpo. Mi piace. Dove io? Esco. Mi hanno dato un anno con la condizionale, quindi te saluto e sono. Te fossi ammazzato brutto, vigliacco d'un delitto. E ora la banda degli onesti. Questo è il primo film in cui viene consacrata la coppia Totò e Peppino ed è una commedia dei malintesi che parla di onestà e tentazioni. A fare da scenario le disavventure di Boncore, Cardone e Lo Turco e in buona parte Rione Monti. Ad esempio, la tipografia di Lo Turco in Piazza degli Zingari, il bar dove Boncore spiega a Lo Turco la metafora dei caffè senza zucchero si trova in Piazza della Suburra. L'ingresso della metropolitana dove i due si fermano a parlare è la metro Cavour e la vetrina del negozio innanzi al quale Totò si arresta credendo di essere inseguito da due carabinieri era in Via degli Zingari. Il rullo, don Antonio! È quasi rullo. Ma no, il rullo! Ah, quella specie di mattarella. Ma da destra, sono qui. Eccolo qua. Si impasta tutto sì, qua. Sì, per carità. Ecco. Basta un uovo. Ecco. Date. Figurati. Scusa. Oh, ci siamo, eh? Ci siamo. La carta. Subito. La carta. Ecco qua. Ma cara, portate sempre a pezzi. Sei la porta per comodità. Filagrana. La filagrana. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Olè! Donna, è il momento di scherzare. No, scusatevi. La filagrana. È la contentezza. Ecco qua. Piano. Abbiate pazienza. Ehi. I portiere su. Ehi. Ragazzi, voi siete d'accordo? Siete? Siamo. Siamo. Ah, siete d'accordo. Ah. Siamo d'accordo. Le pinze. Ecco pinze. È un miracolo. Ecco qua. Anima di mia moglie, perdonami. Alla faccia del ragioniere Casoria. Perdona, la prima. Mi sento, va. No, perdono, no. Mi sento, va. Non fate così. Perdonami. Uno stuzzo d'acqua. Perdonami. In faccia, subito. Perdonami. Cardù, per carità. Cardù. Gli scenari del Marchese del Grillo in realtà sono stati in gran parte ricostruiti in studio a Cinecittà oppure realizzati in città italiane diverse da Roma. Tuttavia nel corso del film si respira la romanità allo stato puro, dato che si ripercorrono le vicende, gli usi e i costumi della Roma papalina. Signor Marchese, e che ci fa lei in mezzo a tutta questa canaglia? Che ci faccio? È proprio lì. Hai visto? Mosso cazzi tui. Mi ci ha messo sto coglione qua. Ma davvero? Ma che, ti sei ubriacato? Te metti a restare al marchese del Grillo? Ma sto in mezzo a tutti questi ladroni. E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo? Per questo ti farai 2 mesi di galera, così ti impari. E che impara? È uno scemo, non lo vedi? Gli avevo pure detto, chiedo. Ah, te l'aveva detto. Allora 4 mesi. Lo perdoni, eccellenza. No. Tutti quanti gli altri in galera. No, meno quello. Quello è il servitore mio, mi viene sempre appresso. Naturalmente. Andiamo, Riccio. Riccio, vai a vedere come vanno i lavori via dei banchi vecchi. Io faccio una scappata dagli Orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah. Mi dispiace. Ma io so io. E voi non siete un cazzo. In vacanze romane, Roma è percorsa in lungo e in largo da Audrey Hepburn e Gregory Peck a bordo di una Vespa. E così ci troviamo insieme ai due protagonisti al Colosseo, a Piazza di Spagna, a mangiare un gelato sulla celebre scalinata, a trascorrere la serata su un barcone lungo il Tevere o a vederci mangiare la mano davanti alla Bocca della Verità. Ecco la Bocca della Verità. La leggenda vuole che se uno mentisce e mette la mano qui dentro, il simulacro gliela morde. Che cosa orrenda! Su, provate, provate. Ora fatelo voi. Certo. Allora andiamo. È il film che ha riportato l'Italia nell'Olimpo del grande cinema mondiale, vincitore dell'Oscar, del Golden Globe, del Davide Donatello e molti altri premi. La grande bellezza è il ritratto malinconico e indolente di Gip Gambardella, un navigato giornalista romano interpretato da Tony Servillo che si muove nella mondanità di Roma nel tentativo di dare un senso alla propria esistenza. Finisce sempre così, con la morte. Prima però c'è stata la vita, nascosta sotto il bla bla bla. Tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura, gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza, e poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile. Tutto sepolto dalla coperta dell'imbarazzo dello stare al mondo. Bla, bla, bla, bla. Altrove c'è l'altrove. Io non mi occupo dell'altrove. Dunque, che questo romanzo abbia inizio. In fondo è solo un trucco. Sì, è solo un trucco. Un giro in Vespa in solitaria, piacevole e intimo, nonostante l'afa delle strade deserte della Roma d'agosto. Lo sappiamo, abbiamo già la scena in mente, ed è quella del primo episodio di Caro Diario, vincitore del Festival di Cannes nel 1994, nel quale Nanni Moretti interpreta se stesso, alla Garbatella, rione popolare dove si respira quell'anima più autentica di Roma, è dedicata a un monologo del film, una vera e propria dichiarazione d'amore di Nanni Moretti nei confronti di questo quartiere romano. Thank you. gonna love her. I'll do anything you ask me to. Sì, la cosa che mi piace più di tutte è vedere le case, vedere i quartieri. E il quartiere che mi piace più di tutti è la Garbatella. E me ne vado in giro per i lotti popolari. My hand, if you wanna strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want. Però non mi piace vedere solo le case dall'esterno, ogni tanto mi piace vedere anche come sono fatte dentro. E allora suona un citofono e faccio finta di fare un sopralluogo. E dico che sto preparando un film. Il padrone di casa mi chiede: di che parla questo film? E io non so che dire. Il mondo del cinema racconta se stesso con tagliente ironia in Troppo Forte, diretto e interpretato da Carlo Verdone insieme al suo padre cinematografico Alberto Sordi. Farsi accompagnare da questo giovane di periferia, questo coatto che frequenta Cinecittà come il sogno di diventare attore, ma incappa in una serie di disavventure, modo migliore per entrare con aria sognante negli studios capitolini. Un vero appassionato di cinema non può perdersi un giro tra i set e respirare l'aria magica che ha ispirato i più grandi registi del cinema italiano e internazionale. Pure no, ma chi è? Mandraga, ma fatemi capire. Perché a sto punto mi viene il sospetto, o che gli americani quando scelgono le facce ci capiscono niente, oppure che alla base ci sono dei motivi politici molto molto precisi e non lo so. Ma che non lo sai? Ma quante volte De Niro ha fatto caccia via la controfigura perché era meglio di lui? E poi scusa, se io ci avessi avuto la faccia troppo buona, i ragazzi del Bronx non l'avrei fatto, la vendetta del Cobra non l'avrei fatto, ma soprattutto non avrei fatto la palude del Caimano, perché tutti lo sanno quello che mi è successo in Rodesia dentro quella palude, tutti, pure i Sassi. Ma fammi capire, che ti è successo in Rodesia? Che noi non sapevamo mai condottare. Un ponte di liane alto 40 metri, va bene? Sotto una palude che faceva schifo, marone, piena zeppa di baracuda, caimani, coccodrilli, piranhas, tutto, anaconde. Sottolino, l'anaconda è un animale che c'ha una capoccia grossa così. A un certo punto arriva il momento di fare la scena. Il regista chiama attore americano, va bene? Arriva, monta sul ponte, dice: oddio, mi gira la testa, via, se ne va. Dice: chiamata la controfigura inglese, arriva la controfigura inglese, dice: oddio, mi viene i brividi, e se ne va. Vede il regista che sbianca, disperato. Che fa? Dice: aiutatemi, qualcuno ci si deve buttare. Io mo guardo, gli ho detto: no, ma va a battere ciacca, va. A ricogliere quel giaccone a Rambo. Fammi finire, fammi. E aspetta un momento, che ti è successo di preciso? Sono curioso di sentire. Dice, dice. Mi butto dentro, premetto che l'acqua era marrone, faceva schifo. Come entro dentro vado giù a picco, immediatamente entro un gelatinoso, mi sento che mi via il ginocchio e me lo porta giù. Poteva essere tutto. A un certo punto mi sento una scarica di morsi. Un'anaconda che diventa una contraerea. Ma poteva essere un'anaconda, un baracuda, un serpente ad acqua, che ne so, poteva essere qualsiasi cosa. Oh, sono rimasto a fondo 3 minuti e mezzo, amoro. Ma che c'avevi? 2 pneumatici a posto dei polmoni. Respiravo con la cannuccia dei bambù, no? Come il protagonista dei Piranhas, così. Oh, mi sarò bevuto dai 6 ai 7 litri di merda come minimo. Pensa come ti buttava il piatto. Vabbè, ma poi come è andata a finire sta storia? Come è da finire? Signori, è da finire che mi hanno dovuto fare 12 sieri, dico 12, perché non si sapeva che bestia era, hai capito? Roba che uno al secondo siero entrava già in coma. Domanda, come va a spiegare questa resistenza ai sieri? Dai, come te la spieghi? Dai, E come te la spieghi? Come te la spieghi? Dai, rispondi. Che ne so io? Lo dico io, che c'ho l'anticorpi che i controcoglioni, hai capito? Ma magari mi venisse l'AIDS, ma magari mi venisse, a stare non 2 ore. Che ne so, 10:30, a mezzogiorno e mezzo l'ho sventrata. È là che ti sei rotto il femore? A tibia, il perone, il malleo, lo spappolamento poi della mirsa, Tocca, moro, tocca, tocca. Distrutta, la senti? Io non sento niente. Ma è piena di cunette, non lo senti? We'll be right back. Dalla grande bellezza di Sorrentino, girato anche al Colosseo, la Fontana di Trevi, della Dolce Vita di Fellini, fino a Piazza Navona di Poveri ma Belli di Risi, al Pantheon del Vente dell'architetto di Greenaway, alla Bocca della Verità di Vacanze Romane di Wyler, al Castello Sant'Angelo di Angeli e Demoni di Howard, nonostante la crisi, tra grandi festival e set cinematografici a cielo aperto, Roma resta ancora oggi la capitale del cinema italiano. È una delle città chiave dell'industria dei sogni a livello internazionale.